C'è un giorno in cui non riesci più a domare il tuo pensiero. Lo scazzo ti avvolge fin quando non diventa sclero. Ti senti prigioniero come dentro un buco nero, ripensando ad ogni volta in cui non sei stato sincero. Sei fuori dal sentiero, fiacco messaggero. Menti quando ti vanti di essere un guerriero. Ti diverti a fingerti gran capo dell'impero, ma dimentichi che in questo viaggio sei un passeggero. Fiero, porti in cielo te stesso e le tue origini, pur sapendo che anche a terra soffri di vertigini. Dici che siamo simili, ma superi i miei limiti se cerchi di convincermi con i tuoi discorsi frigidi. Sogni di sconfiggermi, ma neanche tu ci credi. Preghi che sia veri la tua fantasia e non vedi che ti alleni e ti dimeni. Risultati non ne ottieni, tieni i piedi a terra, chiedi scusa, è tempo che ti siedi. Meglio che freni, niente più chiacchiere di mostra. Smetti di metterti in mostra e prendi la rincorsa. Io proseguo la mia corsa, sfrutto ogni risorsa. Sto cercando una risposta anche se costa. La posta in gioco è grossa, studio ogni tua mossa attentamente. Creo mentre tu sei intento a fare il presidente. Pianifico il futuro lavorando sul presente. Si sente chi è maturo e chi è rimasto adolescente. Canta storie, messaggero fiacco. Copi per non togliere farina dal tuo sacco. Parli di qualcosa con cui non sei a contatto. Ripensa ciò che hai detto e ciò che hai fatto. E resti un canta storie, messaggero fiacco. Copi per non togliere farina dal tuo sacco. Parli di qualcosa con cui non sei a contatto. Sei fatto, sei sputi nel mio piatto. Cosa c'è che non va? Cos'è che ti perseguita? Vuoi essere il protagonista ma non sei una recita. La voglia di concludere qualcosa ti sollecita. La fretta ti fotte e ti fa dimenticare l'etica. La verità è che è un fatto di genetica. Dimentichi il concetto preoccupato dall'estetica. Il fatto è che sei proprio scarso in fatto di dialettica. E per giustificarti vai a dire che è roba ermetica. Tecnica zero. Sei dannoso per l'udito. Tra l'are, l'ere e lire vendi il tuo piatto condito. Manco sei partito, già credi di aver finito. Ma se guardi bene dietro al culo c'hai soltanto il dito. Travestito da campione, segui il tuo copione. Passi le giornate a coltivare un'illusione. Senza dignità, senza umiltà, senza espressione. Si fa molta poca strada quando manca la passione. Soluzione estrema, uso un buon sistema. Ti ascolto solo dopo averti messo in quarantena. Ti rimando a scuola a ripassare qualche schema. E finché non cresci resti a dondolare l'altalena. Canta storie, messaggero fiacco. Copi per non togliere farina dal tuo sacco. Parli di qualcosa con cui non sei a contatto. Ripensa ciò che hai detto e ciò che hai fatto. E resti un canta storie, messaggero fiacco. Copi per non togliere farina dal tuo sacco. Parli di qualcosa con cui non sei a contatto. Sei fatto, sei sputi nel mio piatto. Non ci sono rimedi, non esiste alcuna cura. Sarai sempre solo schiavo della tua caricatura. Stai sbagliando mira se credi di far paura. Tutti lo sanno che sei gonfio perché c'hai l'imbottitura. Sei perseguitato dalla cura dell'immagine, non pensando invece alla cultura in quanto cardine. Non si può colmare in qualche giorno una voragine. Tra dire, fare ed essere c'è sempre un grande margine. Facile lavarsene le mani a giorni alterni. Vivere di sogni ad occhi aperti, riempendo quaderni di padre eterni e termini moderni. Poi di fronte al primo ostacolo ti fermi. Ma così confermi solamente che la mia teoria è corretta. Sbagli gli ingredienti perché ignori la ricetta. Pretendi ciò che non ti spetta, chiedi la tua fetta. Ma dammi retta prima, fatti un poco di gavetta. Stile usegeta, sintetico come l'acrilico. Esempio tipico di MC classificato stitico. In bilico, dopo il primo bicchiere in coma etilico. Ti fingi chimico, poi ti fai viaggi col basilico. Canta storie, messaggero fiacco. Copi per non togliere farina dal tuo sacco. Parli di qualcosa con cui non sei a contatto. Ripensa ciò che hai detto e ciò che hai fatto. E resti un canta storie, messaggero fiacco. Copi per non togliere farina dal tuo sacco. Parli di qualcosa con cui non sei a contatto. Sei fatto, sei sputi nel mio piatto. Canta storie, messaggero fiacco. Copi per non togliere farina dal tuo sacco. Parli di qualcosa con cui non sei a contatto. Ripensa ciò che hai detto e ciò che hai fatto. E resti un canta storie, messaggero fiacco. Copi per non togliere farina dal tuo sacco. Parli di qualcosa con cui non sei a contatto. Sei fatto, sei sputi nel mio piatto. The roughest.